Vendo tutto di Matteo Caccia. La racchetta da tennis, il trapano, il computer e il cellulare, la videocamera, la fotocamera, il divano, il tappeto, il forno a microonde e la scrivania, la bicicletta e il set di valigie. Tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so. Succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un trapano avvitatore. Perché sembra assurdo, ma ci sono argomenti che dividono questo paese. Non mi sto riferendo alla politica e non mi sto riferendo nemmeno al tifo. Mi sto riferendo ai lavoretti fatti in casa. Sono le 16:07, questa è Radio 24 e quello che state per sentire è il rumore che mi fa venire dei grandi sensi di colpa. Questa è la potenza, sono i 12 volt o watt. Volt, nessuno lo sa, siamo degli ignoranti, chiaramente lo leggo sulla scheda. 12 volt, i 12 volt di potenza del trapano avvitatore che oggi vendo, lo potete vedere come al solito sul sito radio24.it e da lì andare a comprarvelo anche se volete su eBay. I sensi di colpa sono dovuti fondamentalmente a due cose. La prima è che non ho mai imparato ad usare un trapano avvitatore e diciamo che già piantare un chiodo nel muro faccio la mia fatica. Ho scoperto che se si mette lo scotch però sul muro prima di piantare il chiodo non viene giù lo stucco. E poi soprattutto perché mi ricorda chiaramente quella splendida relazione che è durata 4 anni e che questo avvitatore ha aiutato, diciamo, a modo suo a tenere insieme. Quindi oggi è soprattutto alle donne all'ascolto che mi riferisco, perché e giuro che non è un modo per giustificarmi, non è un modo per giustificare me o tantomeno gli uomini che come me non sono in grado di fare lavoretti di casa, perché poi invece ci sono quelli tutto fare che sono in grado di cambiare il sifone, a sistemare le tapparelle. Ebbene, care donne all'ascolto, la questione è questa, che per quanto riguarda i lavoretti di casa o ci sei portato o non ci sei portato, cioè come per gli sport, o sai tenere in mano una racchetta da ping pong o non la sai tenere in mano. È esattamente la stessa cosa per questo trapano avvitatore o per un martello o per una pinza. Quindi oggi è proprio alle donne che io vorrei rivolgermi, perché so che ce ne sono tante all'ascolto in questo momento che hanno probabilmente un marito o hanno uno straccio di fidanzato che come me, lo ammetto, come me non sa assolutamente usare gli strumenti per fare i lavoretti di casa e quindi sono costretti a trovarli fuori, il vicino di casa, chiamare l'idraulico, chiamare il falegname. 800 24 00 24 per le donne che non sanno mai come fare i lavoretti di casa perché i loro mariti e i loro fidanzati non sono in grado di farlo e quindi mi spiegate come fate i lavori in casa, visto che vostro marito non lo fa. Prima Laura Faggin mi raccontava che a Padova c'è una cooperativa che si chiama Pronto Marito, giusto? È perfetto, che è un modo, chiaramente, diciamo, quindi le donne di Padova sappiamo come se la gestiscono questa cosa con questa cooperativa. Invece quelle che non sanno come fare perché il loro marito o il loro fidanzato non è in grado, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, questo è per gli sms ovviamente, 349 238 6666, mentre per chiamarmi in diretta a raccontarmi come siete disperate, 800 24 00 24. Uomini all'ascolto, mi prendo tutte le parole al posto vostro. Invece andiamo avanti perché oggi si parla del mio trapano avvitatore. Sentite come suona, sentite che roba. Ebbene, se volete vederlo, radio24.it. volete sentire la sua storia? Pronti, via. L'avvitatore elettrico. Avvitatore elettrico Valex modello Expert 120, batteria ricaricabile a 12 volt, filettatura massima 14 mm, livello di potenza acustica 94 dB, peso 1 kg 700 g. Colore blu comprensivo di una valigetta in plastica, un cavo adattatore, un carica batterie, una batteria 12 volt, 5 punte a stella, 2 punte piatte, 5 punte filettate da trapano. Usato ma in buone condizioni, perfetto per avvitare e svitare. Valore commerciale 11 euro, base d'asta vendo tutto 90 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Dovevo capirlo subito, o almeno quando mi suggerì di chiamarlo Mario invece che papà. Dovevo capirlo subito che il mio vecchio non era molto portato per quel genere di cose. Però io ero piccolo e quindi gli diedi fiducia. Come tutti voi, ho sempre creduto che mio padre fosse quello che metteva a posto ciò che non lo era, no? Cioè quello che fa sorgere il sole, quello che fa apparire il cibo sulla tavola. Certo, la mamma è la mamma. Però quando c'era da fare sul serio, era lui che si dava da fare. E quando c'era da alzare la voce, era la sua, quella più forte. Segno che lui era un po' Dio, no? Ecco, solo col tempo ho capito che la forza di Dio, se ne esiste uno, è non farsi notare. Beh, insomma, all'età di 6 anni ero ancora in venerazione e attendevo quindi ogni sera il suo ritorno a casa come fosse un po' un'epifania. Poi arrivò la scuola. E arrivò anche quella maestra che un sabato aveva deciso che ognuno di noi avrebbe dovuto raccontare un lavoretto fatto in casa con il proprio papà. Io, tornato a casa, dissi a mia madre: «Mamma, scusa, cosa sono i lavoretti fatti in casa?» E lei mi rispose: «Beh, quando si rompe qualcosa, è l'idraulico oppure il falegname vengono a ripararlo». Io le spiegai la cosa della maestra e del compito e, come per magia, domenica mattina mio padre si presenta al tavolo della colazione con un oggetto che poi avrei imparato a definire trapano. Mi disse che quel giorno avremmo appeso un quadro sul muro. A me sembrava una cosa bellissima. E gli chiesi se quello era a tutti gli effetti un lavoretto di casa e lui ovviamente mi rispose: «Certo che lo è». Solo che il quadro era piccino e il trapano aveva una punta enorme. Il muro era friabile, però io e mio padre ce ne siamo accorti tardi, quando una nuvola di polvere si è posata sui giornali che mia madre aveva sparso per il soggiorno e un buco dove potevo far passare tutto il mio braccio si aprì di colpo sopra il divano. Ecco, quel giorno imparai due cose. Primo è che oltre al soggiorno di casa nostra, al di là del muro c'era pure il soggiorno dei vicini, e soprattutto che il mio babbo non era il Padre Eterno. Avevo 6 anni. Ma che succede 2 anni fa? 2 anni fa, quando io e Giulia improvvisamente andiamo a vivere insieme. Beh, succede che mio padre decide che Natale è una buona occasione per scambiarsi dei doni utili. Quindi il giorno di Natale ha questa splendida uscita e la sera della vigilia in realtà mi fa un bel regalo davanti all'albero, di fronte a tutti i miei parenti. Mi mette in mano una cosa che a me pareva un trapano e mi dice: «Figlio mio, stai mettendo su casa e sai bene che ci tengo che tu sia autonomo. Questo avvitatore ti sarà utile». Poi indicò Giulia e disse: «Potrei prenderti cura di questa splendida ragazza. Buon Natale!» Ora, l'avvitatore è un bellissimo oggetto e di recente ho quasi imparato ad usarlo. Ma lì per lì mi era apparsa una presa in giro di notevoli dimensioni. Però rimase in silenzio. Giulia aveva un sorriso buono, perché lei era una persona buona. O, diciamo, così mi sembrava quel tempo. Ecco, questo era uno dei motivi per cui l'amavo. My baby's scared of the dark. She says the night is full of monsters. But when I press my body against hers, I kiss her goodnight and I count to 4. My baby's not scared of the dark anymore. My baby's afraid of fire. She sees visions of flames and intense heat. But when I call her name and makes her heart beat, she sees waves of water breaking onto the shore. My baby doesn't fear no fire no more. Tutto quello che è rimasto in piedi in casa mia è stato montato con questo avvitatore. È un portento, giuro, non me ne libererei se non fosse per via del fatto che sto vendendo tutto ciò che ancora mi lega alla mia vita passata. Lui avvita, svita e fa un sacco di altre cose. E soprattutto sostituisce egregiamente le terribili brugole dell'IKEA. Ciò vuol dire che è anche suo, il merito delle mie mani non arrossate e delle librerie color legno che affollano la casa. Il resto è andato in pezzi. I piatti mentre li lavavo, le amicizie sacrificate sull'altare dell'amore, l'amore ucciso dalla noia e perfino la noia stessa, vinta poi dalla TV satellitare e da quell'invisibile energia che i filosofi francesi chiamano slancio vitale, ma che le persone normali chiamano da millenni spirito di sopravvivenza. Insomma, tutto alla fine batte tutto. Ma torniamo all'avvitatore. Usarlo fu una stupidata. Sì, però per lei, non per me. Io non riuscivo nemmeno a infilare la punta a croce perché non capivo come si sarebbe potuta incastrare con la testa della vite. E questo direi che non era un segnale da poco. Non avendo mai imparato nulla di quello che un uomo deve fare per mettere su casa, non mi ero nemmeno mai passato per la mente di farlo. Quindi l'amabile Giulia si era rimboccata le maniche e aveva montato mobili e bucato pareti. Anche perché, voglio dire, in fondo l'idea era stata sua. Cioè, era stata lei a dirmi: «Che ne dici se dopo l'estate andiamo a vivere insieme?» E io, preso alla sprovvista, le avevo risposto con un «Perché?» Solo che poi, vedendo la sua reazione, l'ho corretto subito con un «Perché non farlo subito, Giulia?». Nel mio intimo nulla fu coinvolto in quella conversazione. Ho agito un po' come un automa. Però alla fine non si può dire che sia stata una scelta sciocca. Tutt'altro. Vivere da soli dopo un po' sclerotizza. Rende sterili. È come se ti disabituasse alle persone. Il problema è che vivere in tanti nello stesso posto non è facile. Sì, per me due persone sono già tante. Mentre l'aiutavo a montare tavolini e armadi, ogni volta mi chiedevo perché. Cioè, non vedevo l'ombra di un motivo. Poi qualcuno mi ha spiegato che era perché così si forma una famiglia, così ci si prepara il nido per i cuccioli. E vabbè, niente, oggi sto vendendo solo un trapano avvitatore. Un avvitatore con cui ho cercato di tenere insieme tutti i pezzi della mia relazione. E a dispetto di come è finita, vi assicuro, l'avvitatore funziona. È un po' lo scettro che mio padre mi ha consegnato per regnare sul mondo. La casa è sempre qui e io anche. È questo avvitatore ad essere di troppo, adesso. Insieme ai ricordi di lei e a tutte le cose che ancora ingombrano casa mia. Ecco perché, nonostante tutto, nonostante il regno che non saprò come governare, nonostante le mani rosse e la relazione che non è riuscito a tenere insieme, questo avvitatore è in vendita. Il suo valore sul mercato dell'usato è di 11 euro. L'asta però qui parte a 99 centesimi. Per vederlo, radio24.it. Per le donne che hanno mariti o fidanzati inadatti al bricolage, 80024 0024. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. 16:19, Radio 24, io sono Matteo Caccia e al 349-238-666 Fabrizio mi scrive: volt non è l'unità di misura volt non è l'unità di misura della potenza. E allora, che cos'è, Fabrizio? Te lo domando. Però poi anche mi scrive Sandro: vendi un trapano avvitatore, ma sei matto? Ho deciso che vendo tutto, quante volte te lo devo ripetere? Però le donne disperate paiono essere veramente tante e hanno chiamato l'800240024. Giorgia da Roma, pronto Giorgia? Ciao! Ciao, buongiorno, come stai? Bene, grazie, tu? Anch'io, diciamo che me la cavo, però tu stai meglio di me perché sai usare un trapano avvitatore. Io so usare un trapano avvitatore perché ho fatto una specie di corso di sopravvivenza. In che come senso? Sopravvivere alla propria casa. E mi è servita quando mi sono resa conto di aver sposato un adorabile ragazzo. Sì, che adesso è tuo marito, quindi. Adesso quindi è mio marito, assolutamente incapace di intendere e di volere per qualsiasi cosa inerente un lavoretto di casa. Ma Giorgia, scusami, tu hai fatto seriamente un corso di bricolage? Un corso di sopravvivenza, per me è stato necessario. Tutto è nato quando una volta, dopo essermi resa conto innumerevoli volte che non era in grado di fare una serie di piccoli lavori. Ma non ci provava nemmeno Giorgia, oppure proprio... Ci provava con dei risultati tremendi, okay. Però come hai detto tu giustamente, ci sono quelle persone che hanno la capacità di fare o non fare una cosa. Chi sa giocare a tennis perché sa tenere una racchetta in mano. È la stessa cosa, Giorgia. È la stessa identica cosa e lui era incapace. Un giorno uno, diciamo, è quando mi sono poi decisa a prendere la situazione in mano, sì, e dare una svolta, è stato quando si è rotta la una normalissima tavoletta del water. Ma guarda che quella, però, perdonami, è una delle cose più difficili, perché di solito le vite si staccano e tu devi cambiare tutta la vite e anche la ceramica lì. D'accordo, ma diciamo che non si sarebbe mai venuto in mente, come è venuto in mente a lui, di segarla. Beh, è un genio però tuo marito. Come si chiama tuo marito, Giorgia? Stefano, perfetto. Stefano ha segato la tavoletta del bagno, facendo sì che i perni rimanessero all'interno, sì, e quindi impossibile tirarli fuori dal buco. Siamo stati 2 anni senza la tavoletta. Senza tavoletta, con necessità, ovviamente, come ci hanno detto poi, di dover sostituire la tazza intera. Ovviamente. Senti, Giorgia, ti ringrazio. Guarda, rimango con questa immagine della tavoletta, anzi della non della tavoletta segata. Grazie mille. Ciao, Giorgia. Ciao. 800240024. Marina, sempre da Roma. Pronto? Sì, ciao. Ciao, Marina. Senti, no, io non sono interessata al trapano perché ce l'ho, ovviamente. Ok, beh, perfetto. Tanto guarda, già mi pare che su eBay ci siano delle offerte, quindi sono tranquillo. Però tu hai esperienza di lavoretti. Ma certo, io ho comprato tutto. Uno dei regali che ho chiesto per il mio compleanno, per esempio il seghetto elettrico, sì, con tutti quanti gli accessori, perché io adoro fare il bricolage. E poi ho mio marito che... Scusami, qual è il seghetto elettrico? È una piccola sega che è elettrica? Esatto, se tu vuoi fare tutti i lavori di falegnameria, diciamo piccoli, non, il seghetto elettrico è utilissimo. Tipo tu che lavori hai fatto col seghetto elettrico? Per esempio ho restaurato una porta, ci puoi tagliare tutti i zoccoletti di legno, oppure fare piccoli mobili, cioè parecchie cose posso fare col seghetto elettrico. Ah, okay. E poi ho comprato l'avvitatore e svitatore, lo sparapunti, sparachiodi. Tutto tu ti sei comprata? Certo, per me è il regalo più... anche la carteggiatrice. Ma scusa Marina, ma il fatto è quindi che a te piace, non è che lui non li sappia fare? Tutte e due. Ah, tutte e due. Allora, intanto okay, lui è un disastro, primo, secondo è un po' un bradipo. Ah, ok. E poi se lui decide di fare una cosa, dopo 10 giorni siamo ancora lì. Marina, vuoi dirgli qualcosa ufficialmente in diretta? No, tanto lui lo sa. Perfetto. Grazie mille, Marina. Grazie. Ciao, buona giornata. Rimaniamo a Roma. Lulu, pronto? Ciao, caro. Ciao, caro. Ma sei un uomo, però, quindi tu cosa fai? Ti addossi la colpa? Mi addosso i sensi di colpa per quanto riguarda l'uomo e la donna, sono sempre rimasti in quella specie di limbo dove uh-huh, i maschili e gli ormoni femminili combattono. Io combatto contro i miei ormoni femminili, che sarebbe, si chiama Manolo, figurati. Allora lui è geloso di te. Scusami? È geloso di te. Di me? Il tuo compagno? Allora, tu hai un compagno. Io vorrei prendermi la tua voce, gli ho detto a lui, no? Dico, senti che voce bella che c'ha. E lui sempre è geloso. Adesso per parlare con te l'ho dovuto mandare con 50 euro in tasca a fare la spesa. Ok, allora Lulu, chiariamoci. Tu hai un compagno, a parte che è geloso della mia voce, ma chi è che dei due fa i lavoretti in casa o non li sa fare? Li faccio io, figurati. Ah, perché figurati, scusami? Perché se no non sarei qui a parlarti, no? Dimmi l'ultimo lavoro che hai fatto. Un restauro di un mobile, perché lui lo sai che fa, va in che giro, fa? Raccoglie tutta la legna vecchia, poi viene da me perché è un artista a modo suo, no? Allora mi dice, guarda, questa è una legna vecchia che ha 40 anni, 50 anni, bla bla bla. Sì. Adesso tu mi fai un mobiletto, perché comanda lui, figurati, no? Mi dice, adesso tu mi fai un mobiletto, mi fa pure il disegnino. Ah. Io mi devo mettere là con i sistemi antichi, comparato, perché lui il vecchio paravento lo sa. Uh-huh. Io mi devo mettere là a fargli esattamente il mobiletto come lo vuole lui. Sì. Che non è come prendere un trapano, come prendere... Direi di no. Senti Lulu, ma scusami, un'ultima cosa, da quant'è che vivete insieme? Saranno dei tempi del liceo. Vabbè, allora ci sei abituato. Lulu, grazie mille, salutami il tuo fidanzato. Certamente. Ciao, un abbraccio. L'ultima telefonata a Bergamo, Valentina. Sì, ciao. Ciao Valentina, tuo marito non ci sa fare per niente, mi pare. No, per niente, devo ammettere che anch'io non ci so fare per niente. Però volevo consigliarti di tenertelo il trapano, perché secondo me, insistendo, come è successo nel nostro caso, dopo 12 anni di matrimonio e dove è necessario sopravvivere alla vita della famiglia, secondo me prima o poi imparerai anche tu a usare il trapano, così come ha fatto mio marito con grandissime fatiche, perché era assolutamente... Alla fine ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Guarda, ma il trapano Valentina funziona. Lo senti che, cioè, vuol dire, funziona alla grande. È che però mi spiace, ma ho deciso di rivendere tutto e quindi vendo anche questo. Valentina, ti ringrazio e ti mando un bacio. Senti, dimmi. Sei un poeta, eh? Addirittura. Guarda, no, io esco dallo studio tutti i giorni per andare a prendere i bambini e non vedo l'ora di ascoltarti. Guarda, veramente un poeta. Mi stai mettendo in imbarazzo, Valentina. Ti ringrazio molto. Ciao, un abbraccio. Visto che anche il nostro trapano avvitatore comincia ad avere offerte su eBay, voi mi continuate a chiedere, giustamente, cosa ne fai di questi soldi? Quello che faccio è esattamente questo. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi, scalare il Monte Rosa, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, lanciarmi col paracadute da 6.000 metri, sposarmi a Las Vegas, non importa con chi, giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo, portare a cena fuori Natalie Portman, fare un viaggio in mongolfiera, spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli, imparare a suonare la batteria, incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama, fare un viaggio con la Transiberiana, vedere una finale del Super Bowl, vedere il Taj Mahal, attraversare la foresta amazzonica, vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada, imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub, e poi imparare a camminare sul filo. Allora chiariamoci, il volt, mi scrive Mirko, è l'unità di misura dell'intensità della corrente, il watt è invece la misura della potenza. Ciao, ringrazio Mirko, ringrazio però anche Pietro Lacorte, Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Stefano D'Andrea. Domani si continua la vendita perché è la volta della mia racchetta da tennis, una racchetta Wilson del 2007, usata poco e tenuta divinamente, l'ennesimo tentativo fallito di avvicinarsi ad uno sport in età adulta. Quella di oggi invece era la storia del mio avvitatore, per vederla e comprarla andate sul sito radio24.it. E mi raccomando, uomini e donne all'ascolto, ovviamente, non fatevi scrupolo di liberarvi delle vostre cose, perché alla fine un avvitatore è solo un avvitatore. Love, love, love, wherever you go.